guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti all'ascolto di Guardie o Ladri, la trasmissione che ogni sabato alle 19.30 affronta temi di legalità, sicurezza e criminalità. Questa è la terza settimana consecutiva che dedichiamo all'amianto e al rischio che i lavoratori hanno negli anni avuto nel contatto con le fibre di amianto, la lavorazione del cemento amianto. Abbiamo sentito diverse testimonianze. Oggi terminiamo questo viaggio anche con uno sguardo oltre frontiera, per la precisione oltre Manica. Terminiamo il nostro viaggio con una testimonianza diretta, con quel che accade invece in Inghilterra ed infine con ciò che accade nelle ASL deputate ai controlli. Ed è quindi con piacere che do il benvenuto alla signora Luisa Minazzi di Casale Monferrato, che arricchirà questo viaggio nel mondo del rischio amianto. Buonasera Minazzi. Buonasera. Allora, lei è di Casale Monferrato, ha mai lavorato all'interno della fabbrica del gruppo Eternit? No. Quindi lei si è ammalata, questo diciamolo ai nostri radioascoltatori, pur non lavorando all'interno del gruppo Eternit? No, io mi sono ammalata, la diagnosi è del maggio del 2006, e ho vissuto a Casale Monferrato però fin dalla nascita, e quindi questa malattia che ha un'incubazione di 30-40 anni verosimilmente è stata in qualche modo contratta e poi è rimasta in silenzio. Quindi è rimasta latente per 30 anni. Quando io ero piccolina, perché erano gli anni in cui Casale aveva il massimo inquinamento da amianto, gli anni 50 e 60, mentre oggi, nei giorni nostri, si può dire che Casale Monferrato è una città vivibilissima, anzi una bella città, che non ha più assolutamente problemi di provocare questa malattia, perché anzi i vari malati e le varie morti che ci sono state hanno creato un movimento consistente di cittadini, sindacalisti, ambientalisti che hanno stimolato gli amministratori ad iniziative di bonifica. Ecco, posso chiederle che tipo di malattia lei ha contratto? Io ho contratto il mesotelioma pleurico, che è proprio una malattia della pleura, un cancro della pleura, che si sviluppa proprio con la presenza di amianto, respirando le piccole fibre che sono quasi invisibili e che sono disperse nell'aria di questa sostanza, si può contrarre questa malattia. Ecco, alcuni la sviluppano, altri no. Ecco, io questo lo chiedo ovviamente non perché voglia essere indiscreto, ma perché è giusto ricordare ai nostri radioascoltatori due cose. La prima, la lunghissima incubazione che hanno queste malattie, e il fatto che in sei paesi europei dove le fabbriche Eternit erano presenti ci sono centinaia di migliaia di persone che sono malate ed altre centinaia di migliaia di persone che ancora non sanno di essere malate. Torniamo alla signora Minazzi, le chiedo che tipi di controlli esistevano, che lei possa ricordare, quando era, come dire, piccolina, Casale Monferrato, da parte delle istituzioni e da parte anche delle imprese. Da parte delle imprese non c'era nessuna protezione, nel senso che per i cittadini perlomeno, nel senso che tutte le polveri venivano disperse nell'aria oppure venivano attraverso i canali di scolo, venivano mandati nelle acque del Po. I camion che trasportavano questo materiale, anche la polvere di amianto, viaggiavano per la città ed erano addirittura scoperti, quindi questa polvere nel passaggio si disperdeva per le strade, quindi è stato veramente un inquinamento di vasta portata. Da parte delle amministrazioni non c'era ancora questa capacità di capire che tutto questo provocava un inquinamento terribile, quindi non c'era nessuna risposta. Le prime, diciamo, lotte all'interno della fabbrica per avere un ambiente più vivibile, perché gli operai lavoravano a diretto contatto di questa sostanza e si ammalavano prima di tutto di asbestosi, perché è un'altra malattia che provoca un indurimento dei polmoni. È una malattia che non è così terribile come il mesotelioma, però qualche volta provoca addirittura la morte, perché il polmone non svolge più la sua funzione. Certo, cioè. Certo. Ecco, signora Minazzi, volevo chiederle questo. Ad un certo punto finalmente si prende consapevolezza del fatto che la lavorazione del cemento amianto è comunque pericolosa, si dismettono le fabbriche, le amministrazioni cominciano a prendere coscienza del fatto, comincia l'opera di bonifica che, come sappiamo, a Casale Monferrato si è conclusa. Ecco, ci racconta come è andata la bonifica e qual è stato il ruolo della cittadinanza? Sì, allora, si è conclusa, non è del tutto esatto, perché si è conclusa per gli edifici pubblici. Sì, cioè per è tutto corretto quello che lei specifica. Di cui ha la responsabilità l'amministrazione. Mentre per i privati ci sono ancora varie coperture di amianto che devono essere bonificate ed è un lavoro lungo, insomma. Comunque è successo che appunto negli anni '80 c'è stata un po' una mobilitazione di ambientalisti, medici, sindacalisti che chiedevano che la fabbrica intanto fosse chiusa del tutto, perché ormai la fabbrica era in crisi, però c'erano dei tentativi di comunque di continuare delle lavorazioni all'interno della fabbrica, e si è riusciti ad ottenere la chiusura nell'86 della fabbrica. Poi c'è stata una sensibilizzazione dell'amministrazione comunale e il sindaco di allora, Riccardo Coppo, fece una ordinanza coraggiosissima, nel senso che fu la prima in Italia e forse in Europa in cui si diceva che era vietato sul territorio del comune utilizzare manufatti in amianto e utilizzarli e produrli. E questa è stata effettivamente un primo segnale molto, molto forte da parte dell'amministrazione, anche perché se pensiamo che la legge che ha messo al bando l'amianto, la legge nazionale del 92, insomma, siamo sì, ha precorso sicuramente i tempi. Ecco, ma voi, per esempio, lei segnatamente, in qualche modo a questa bonifica avete contribuito, avete dato una mano? Sì, io in quei tempi ero tra i fondatori dell'associazione Lega Ambiente di Casale Monferrato e abbiamo aiutato molto la sensibilizzazione dell'amministrazione di tutti i cittadini, perché era forse il tema più grave, l'aspetto ambientale più grave, preoccupante che avevamo a Casale. Poi in quegli anni, appunto, ripeto, come Lega Ambiente, insieme ai medici, insieme ai sindacalisti, c'è stata una buona collaborazione tra tutti. E poi io ho partecipato alle elezioni comunali e sono diventata assessore all'ambiente dal 1990 al 1995. Per cui abbiamo iniziato proprio in quegli anni la prima bonifica. Era il 94, siamo riusciti a iniziare la bonifica di un grande magazzino dove venivano collocati i manufatti, che è dalla parte opposta rispetto alla fabbrica, e questo grande magazzino aveva tutte le coperture, aveva 22.000 metri quadrati di coperture di Ethernet, in più anche polvere di amianto, insomma, quindi era una prima bonifica per la quale non sapevamo assolutamente come muoverci, cosa fare, perché non c'erano linee guida, certo, non c'erano indicazioni. Ecco, e ricordiamo ai nostri radioascoltatori, mi scusi se la interrompo, che lei ha fatto bene a specificare che la bonifica ha riguardato gli edifici pubblici, perché l'Italia è tappezzata da edifici che ancora contengono parti consistenti di amianto. Un'ultima domanda vorrei farle, Minazzi. Come giudica l'offerta da parte del gruppo Eternit dei discendenti e segnatamente del magnate Schmidaini, che vuole risarcire, diciamo così, con un gesto, una liberalità, i familiari delle vittime. Ma assolutamente in modo inadeguato, perché parla di risarcimento solo dei lavoratori della Eternit in un periodo di tempo limitato. Sì. Mentre chi ha contratto la malattia, come me, insomma, ce ne sono tanti altri, sono tutti cittadini. Ecco. Al di là dei lavoratori dell'Eternit. Certo, ed è questo il motivo per il quale abbiamo sentito e ascoltato volentieri e con piacere la testimonianza di una cittadina piemontese di Casale Monferrato, patria italiana, possiamo così dirlo, della lavorazione del cemento amianto, che però non ha mai lavorato all'interno di quella fabbrica, ma purtroppo si è ugualmente ammalata, scoprendo la distanza di oltre 30 anni. Ringrazio Luisa Minazzi per la sua testimonianza. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto di Guardie o Ladri, chi vi parla è Roberto Galullo. Subito la mail alla quale scrivere per indicare criticità e casi di criminalità, delinquenza, malavita organizzata, guardieoladri@radio24.it. Il mio blog è robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Stiamo parlando oggi ancora una volta per la terza e ultima settimana di amianto e il rischio al quale sono stati sottoposti migliaia di lavoratori in questi anni. Lo abbiamo fatto, ricorderete, attraverso la voce dei sindacalisti, la voce dei lavoratori, la voce dei difensori delle imprese, segnatamente il difensore dell'avvocato Schmidini, proprietario delle fabbriche di Eternit. Lo abbiamo fatto, lo avete sentito nella prima parte del programma, con testimonianze dirette di chi si è ammalato pur senza aver avuto contatto diretto con le fibre di amianto e con l'amianto cemento. Ora terminiamo questo viaggio andando a vedere come si effettuano i controlli e poi daremo uno sguardo oltre manica. E per capire come funzionano i controlli ho il piacere di avere collegata con noi in linea la dottoressa Susanna Cantoni, che è direttrice dell'area dipartimentale prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro sul territorio dell'ASL 1 di Milano. Buonasera, dottoressa Cantoni. Buonasera. Allora, quali sono i controlli che voi effettuate e qual è la situazione a Milano e provincia? Quei controlli che noi effettuiamo non da oggi ma da molti anni sono sui lavori di bonifica che vengono effettuati nel territorio dell'ASL Città di Milano. Ogni anno vengono notificati dai 700 ai 1000 cantieri di bonifica amianto e noi li controlliamo in misura diversa a seconda che si tratti di amianto in matrice friabile, il più pericoloso. Che è quello che si respira, no? È quello che in genere è presente nelle coibentazioni, nelle isolamenti termici, per esempio delle tubazioni, certo, delle caldaie o anche nello spruzzato in alcuni casi di pareti, soffitti. Che serve. Quindi come è pericoloso, insomma. Sì, è il più pericoloso perché si sfalda e quindi dà una dispersione di fibre che poi possono essere inalate dalle persone, certo, presenti. Ecco, io non sapevo, ovviamente l'ignoranza è la più grande dote di un giornalista, quindi non conoscevo questi numeri, ma sono tantissimi, 700-1000 cantieri all'anno solo nell'area solo di vostra competenza. Città di Milano, sì. Quindi vuol dire che c'è ancora una dote lasciata in eredità enorme di amianto da bonificare in questa città. Assolutamente sì, l'altro lavoro che noi stiamo cercando di fare è quello di censire tutti i siti che sono in cui è presente materiale contenente amianto e per far questo abbiamo degli strumenti che sono piuttosto onerosi perché gli obblighi che avrebbero i proprietari degli immobili contenenti materiali con amianto, di denunciare la presenza di amianto all'ASL Città di Milano, alla ASL come certo. Città di Milano come a tutte le ASL. Come tutte le ASL. Sono, questi obblighi sono largamente disattesi. Ma questo secondo lei perché? Perché si ha paura? Perché è più facile da come dire, direi da buoni italiani, ma in realtà invece perché da cattivi italiani lasciarlo in una discarica? Come in molte altre vicende, sempre meglio tacere piuttosto che... Beh, questo è veramente riprovevole però, eh? Direi di sì. Assolutamente. Ma quante persone sono dedicate, dottoressa, a questa importantissima opera di bonifica? Ma noi abbiamo un organico che comprende circa 45 tecnici e una quindicina di medici del lavoro, ma che si dedicano a questo come a tanti altri argomenti. Il nostro, per esempio, intervento prioritario è nei cantieri edili, che sono sempre tantissimi nella città di Milano. Assolutamente corretta la... Però prego. Noi riusciamo con queste forze in Milano a controllare almeno una volta tutti i cantieri di amianto friabile, appunto quello che dicevo, il più pericoloso, e circa un terzo di quelli in cui è presente amianto in matrice compatta, tipo le tettoie in Eternit, manufatti in cemento amianto. Privilegiando quelle situazioni di maggior sensibilità, nel senso che sono edifici che sono aperti al pubblico, quindi le scuole, gli ospedali, le grandi aree. Certo, certo, certo. Benissimo, dottoressa Cantoni, io la fermo soltanto un attimo perché con piacere passo la parola al corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, Marco Niada. Buonasera Marco. Buonasera. Allora Marco, recentemente abbiamo letto sui giornali inglesi che anche Westminster cade a pezzi e anche a Westminster c'è un allarme amianto per i deputati inglesi. Puoi raccontarci questa storia curiosa? Sì, non solo per i deputati, ma un po' per tutti quelli che lavorano magari anche in pianta più stabile, come quelli addetti alle cucine, eccetera. Beh, il fatto è che intanto qui c'è una legge che è in vigore da 30 anni sugli effetti dell'amianto, dell'asbestosi, e quello che è stato fatto è che nel 2005 è stato scoperto attraverso un'ispezione del Parlamento di Westminster che c'erano dei condotti da aereazione che purtroppo invece di aereare portavano in giro la polvere di amianto. Ecco. Certo. E questo ha creato un putiferio, una preoccupazione, eccetera. Correggimi se sbaglio, è stato quantificato anche il tempo necessario per rimettere, come dire, in ordine le cose, sarebbero circa 3 anni di tempo necessario e circa 450 milioni di euro, quindi non è propriamente una sciocchezza, soprattutto di questi tempi, no? No, assolutamente. E poi all'inizio di quest'anno è venuto fuori di nuovo che, allora hanno detto, beh, facciamo altre ispezioni, e hanno fatto 1000 test sull'aria e hanno detto che 40 siti di quelli che avevano testato risultavano negativi, però nessuno ha detto niente degli altri 160, per cui insomma la situazione è piuttosto torbida e abbastanza, diciamo, anche inquietante, perché poi certo. Non si è arrivati a una conclusione. Anche ora, abbastanza delicata, insomma. Esatto, poi il problema è che sicuramente l'avrete già detto nei vostri programmi, ma l'amianto non solo è usato in edilizia, ma specialmente anche nella cantieristica navale. Ad esempio, certo. In Scozia, dove c'erano molti cantieri navali, adesso c'è grande preoccupazione perché la Camera dei Lord ha sospeso una legge che prevedeva delle compensazioni ai malati da asbestosi, diciamo goccia a goccia, perché avevano previsto che avrebbero al massimo risarcito 10 milioni all'anno di euro circa, 6,5 di sterline. Adesso sta venendo fuori, hanno fatto degli studi, le società di assicurazione, il rischio è che potrebbero risarcire da qui al 2015 fino a 8 miliardi di sterline. Mamma mia, una cifra veramente enorme. È un problema sociale dappertutto. Sì, ma infatti nelle nostre... Un po' fatto come il tabacco. Se certo. Poi ognuno chiede un risarcimento, dato che siamo stati tutti esposti all'amianto per decenni, senza saperne gli effetti. Perché era il materiale di coibentazione principale, adesso è un po' come abbaiare alla luna. Assolutamente. Se poi si rivalessero avrebbe un costo sociale mostruoso. D'altronde è ingiusto che la gente non possa rivalersi. Per cui adesso qui c'è molta discussione. Ecco Marco, vorrei chiederti questo. Abbiamo sentito dalla dottoressa Cantoni, direttrice dell'area dipartimentale dell'ASL di Milano per quello che riguarda, appunto, abbiamo detto, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, della cattiva coscienza civica di molti cittadini, non soltanto milanesi, per carità di Dio, ma di tutta Italia. Purtroppo chiunque di noi ha avuto esperienze di parti di tetti in amianto abbandonati sui bordi della strada. Ti chiedo, per concludere questo nostro viaggio, qual è invece la coscienza civica degli inglesi? Qual è la sensibilità sul problema? Non posso risponderti in modo dettagliato, però in quanto a pulizia, in quanto a questo, gli inglesi non, forse sono peggio degli italiani. Ecco. Quindi anche lì c'è poco rispetto. Assolutamente, poi si vede sulle costruzioni, come tutti sanno, chiunque è passato per Londra, per l'Inghilterra, non è che ci sono delle costruzioni alla Svizzera qua, quindi c'è molto uso di cartongesso, di mattoni, sono costruzioni vecchie. E poi diciamo che Londra si è sviluppata tutta nell'età vittoriana, quindi Londra ha raggiunto queste dimensioni in 100 anni, fra il 1800 e il 1900, ed è stata costruita con grande velocità e tirata là. Quindi con tutti quindi i rischi. Immaginiamo la quantità che ci sarà ovunque. Di certo, di quindi con tutti i rischi connessi al caso che ci ha descritto Marco Niada, corrispondente del Sole 24 Ore, che ringrazio per il suo intervento, così come ringrazio la dottoressa Cantoni dell'AS di Milano. In regia un grazie a Giorgio Mattei, in studio a Laura Faggina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri.